Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Bentrovati, nuovo appuntamento con il mondo della scuola. Siamo verso la fine della nostra programmazione, anche dell'anno scolastico, e allora comincia già il tempo dei bilanci. Tra i temi che periodicamente trattiamo c'è quello dell'orientamento scolastico. Lo facciamo all'inizio dell'anno, a metà dell'anno, lo facciamo anche adesso. Orientamento uguale Giampaolo Alimede, bentrovato, bentornato. Grazie. È una corrispondenza che a noi piace. È un imbarazzo notevole, comunque va bene, ormai è così. L'etichetta ce la teniamo, ma la tua esperienza ci aiuta sempre. Siamo a fine anno, quindi oggi hai pescato tra i più grandi, no? Certamente, hanno finito un percorso e quindi è giusto aprire un'altra prospettiva. Come il Giro d'Italia, finita una tappa se ne comincia un'altra. Vedi, sei proprio a tema. E quindi adesso tiriamo le somme. Questi giovanotti, anche se insomma hanno quel piccolo scoglio che si chiama esame di Stato da superare, però vabbè, insomma fa parte della vita. Gioco, le regole del gioco. Allora, ne abbiamo quattro di studenti che arrivano tutti dall'Istituto Madonna del Grappa, le Canossiane di Treviso. Iniziamo con due: Giorgia della quinta A sociale, benvenuta. Ciao. E McConnen, che invece è della quinta B, indirizzo sportivo, benvenuto. Ciao. Allora, partiamo da quale domanda, Giampaolo? Ma io direi che, trattandosi di bilancio, potremmo partire guardando all'indietro, cosa ne dite della vostra scelta? Siete soddisfatti? Rispetto, pensando alla terza media, quindi a 5 anni fa più o quindi meno. Dobbiamo McConnen fare uno sforzo. Beh, io sono soddisfatto della mia scelta, della scuola che ho scelto, perché riesco a gestirmi, diciamo, gli studi e anche il tempo libero. Nel tempo libero pratico atletica leggera e quindi ho anche il tempo per praticare questa passione che ho fin da giovane. Quindi la scelta è stata, diciamo, corretta e anche giusta. Bene. Giorgia? No, io penso di aver fatto una scelta appropriata. Prima, quando ho scelto le Canossiane, ero un po' indecisa, però poi mi sono trovata in un bell'ambiente dove mi sono trovata a mio agio, mi sono anche piaciute le materie da studiare, quindi avevo anche interesse nello studio e mi sono lanciata nello studio, mentre prima magari mi dedicavo meno. Avevate avuto dubbi all'epoca, cioè eravate rimasti indecisi su cosa scegliere? Sì, beh, ero piccolina, quindi è anche difficile a 14 anni scegliere un percorso che durava 5 anni e arrivare a 18 anni, si è molto confusi a quell'età, penso. Quindi ho seguito i consigli che mi hanno dato tante persone e poi alla fine ho scelto quella. Tante persone, per te è chiaro, ma per gli ascoltatori è difficile immaginare. Per esempio, le più significative. Beh, i miei genitori sicuramente. Poi hanno avuto una grande influenza anche i miei fratelli e soprattutto i professori che avevo all'epoca. Mi hanno dato dei buoni consigli alla fine. Bene. Veniamo allora a McConnen. Di questi 5 anni, manca poco ormai, mancano pochissime settimane, però il ricordo più bello? La cosa più bella, a parte l'insieme del percorso che hai fatto? Diciamo che tutti gli anni sono stati belli per me, nel senso, mi sono trovato bene in questo istituto e che i miei compagni di classe mi sono stati anche vicini e mi sono trovato veramente bene, nel senso che tra gli studi e anche oltre era tutto liscio, quindi nessun episodio particolare? No, nessun episodio. L'insieme. Anzi. Giorgia? A me non mi viene in mente un episodio particolare, ma la cosa che mi ha stupito di più e che mi è piaciuta di più della scuola è stato il rapporto che si creava tra l'insegnante e l'alunno e l'insegnante e la famiglia. C'è sempre stato un rapporto molto aperto, di dialogo, di collaborazione. Penso che sia stato particolarmente importante. Bene, anche questa è una cosa significativa. Passiamo agli aspetti negativi. Sì, diciamo che nella vita ci sono le cose, diciamo, che fanno piacere ricordare, delle cose che magari ci hanno un po' scombussolato l'esistenza, no? Qualche piccolo difficoltà, incidente di percorso, si dice, no? Tutto liscio, non è possibile in 5 anni. No, secondo me, per esempio, nei 5 anni si potevano fare magari più gite, quindi più divertimento. No, ma segnaliamo al preside. Sì. Un episodio proprio che ti ha, hai capito, un po' lasciato l'amaro in bocca, si direbbe, no? Un episodio. Una sì, difficoltà, un'esperienza negativa. I primi giorni, vi ricordate i primi giorni di scuola? Sì, magari i primi giorni ad inserirsi nell'istituto, ma poi ci si abitua, quindi sì, sì. Magari il momento più difficile è proprio stata la prima fase. Poi niente. Io direi la prima fase di incontro, io non conoscevo nessuno, quindi è stato... sì, è stato abbastanza, mi sono un po' chiusa inizialmente, poi però ho trovato un bel ambiente e di conseguenza tutto liscio. La prima fase ma anche l'ultima, e comunque nel senso qui adesso abbiamo gli esami di maturità di Stato e quindi cresce l'ansia, cresce un po', soprattutto per le materie dove magari si è meno portati, e allora lì matematica per esempio chissà perché viene sempre fuori matematica, non capisco, va bene. Comunque l'ingresso è così per tutti, infatti la scuola fa sempre quelle cosiddette attività di accoglienza, no? per favorire questo passaggio dalle scuole medie alle scuole superiori. Va bene, mi pare che insomma questi due ragazzi qua hanno fatto un percorso che ricorderanno piacevolmente da quello che... Proviamo prima della pausa già a guardare avanti, se avete già pensato a cosa fare dopo. Io adesso per ora sto pensando a due facoltà, diciamo la prima è quella di economia aziendale a Foscari, mentre la seconda è ingegneria nel settore, diciamo, delle energie rinnovabili a Padova. Devo ancora decidere, però... un po', questi sono i due fronti aperti, sì. Giorgia? Io essendo più portata nelle materie umanistiche e soprattutto avendo scelto la scuola per psicologia soprattutto, pensavo di continuare questa scelta e quindi di iscrivermi a psicologia a Padova, e se ci riuscirò porterò avanti questo. Va bene, allora facciamo un po' di pausa, poi riprendiamo da loro perché abbiamo ancora qualche domanda da sottoporre. Benissimo. Prima di arrivare agli altri due ospiti, a tra poco. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. È stato tanto tempo fa che ti parlavo di una storia magica. Ma se guardiamo la realtà, è ben diversa da quel sogno erotico. È strano, ma adesso che ti vedo, riprovo ancora le stesse emozioni di allora. È come se rivivo per un attimo gli stessi giorni, anche se non sono più gli stessi giorni. Ma se vuoi sorvolo, insieme a te io prendo il volo. Ma se vuoi nuotiamo nel mare dove non si tocca, così ti bacio sulla bocca. Ricordi il posto era proprio là, in riva al mare aspettavamo, con gli ombrelloni chiusi che diventava chiaro. L'imbarazzo al mattino, che c'era il sole che ci illuminava. Io prendo il volo, ma se vuoi nuotiamo nel mare dove non si tocca, così ti bacio sulla bocca. Ma se vuoi sorvolo, insieme a te io prendo il volo, ma se vuoi dal mondo della scuola. Programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Proseguiamo il nostro percorso nel mondo della scuola, nel mondo dell'orientamento a chiusura dell'anno scolastico, ma non solo, di un ciclo di formazione con la quinta e l'esame di Stato, come succede ad esempio a McConnell e Giorgia, che frequentano la classe quinta in due indirizzi diversi dell'Istituto Canossiano Madonna del Grappa di Treviso. Gianpaolo, abbiamo ancora qualche domanda da sottoporre loro. Ecco, allora, intanto l'alternativa che ha presentato McConnell tra economia aziendale e energie rinnovabili dimostra che ancora, diciamo, c'è tempo per scegliere definitivamente, no? Quali sono i criteri che ti portano a scegliere alla fine di tutta la fiera, come si dice, no? Alla fine della fiera, quali sono i criteri che ti porteranno a scegliere o l'una o l'altra? Secondo me ci sono vari fattori, tra cui ovviamente la passione per quella materia, o se no per anche il tempo libero, cioè il tempo che ho a disposizione magari nei pomeriggi per praticare appunto l'atletica leggera, che è la mia passione, che vorrei continuare. Poi magari anche il trasporto potrebbe influenzare, più vicino e meglio riesco a stare magari insieme alla mia famiglia e con i miei amici. Domanda cattiva. Di solito chi sceglie le facoltà vicine a distanza di tempo si pente perché magari non è la scelta migliore. Un altro criterio non potrebbe essere quello del futuro che abbiamo davanti? Sì, anche vedo. Ci pensi e dopo. Sì. Vediamo Giorgia allora. Mancano poche settimane, esame di Stato difficile, hai già detto sei preoccupata per matematica, va bene, insomma inciderà per la sua parte nella valutazione complessiva. Cosa provi a pensare che fra un mese, come successe 5 anni fa con i compagni di scuola media, fra un mese vi disperderete, per cui non vedrai più tante persone, non frequenterai più quegli ambienti, quella scuola, quei professori, eccetera eccetera. Allora, o non ci hai ancora pensato? Da un certo punto di vista mi sono contenta di finire un percorso, perché insomma è una bella tappa da raggiungere e poi bisogna proseguire, bisogna andare avanti per la propria strada. Però c'è anche tanto rammarico, perché perderei delle persone che hai visto ogni giorno per 5 lunghi anni, che hai imparato a conoscere, a condividere molte cose, sei cresciuta con loro e anche grazie a loro. E anche con la consapevolezza che magari pur cercando di tenere stretti i rapporti non sarà sempre così facile. E quindi sì, soprattutto un po' mi dispiace. McConnell? Sì, anche a me dispiace lasciare i miei compagni di classe, ma la scelta della vita, quindi prima o poi bisogna cambiare strada. Allora, in un flash, prima di passare agli altri due ospiti, la vostra previsione e la vostra aspettativa per questo esame, cosa vi aspettate da voi stessi come risultato? Intanto di uscire, ma magari con quanto? Cioè, spero di uscire con buoni voti, diciamo. Io ci metterò del tutto e mi impegnerò. È quello che viene. Io faccio sempre la parte dell'ascoltatore, no? Buoni voti, si dà un numero, 60. No? Di solito provo intorno agli 80. Bene, ecco, allora gli ascoltatori hanno capito che abbiamo quantificato, Giorgia. Ma io non vorrei fissarmi su un voto, io voglio semplicemente cercare di fare il mio meglio e non ho un obiettivo a livello di voti. Voglio solo cercare di chiudere in maniera ottimale un percorso che ho fatto e in cui mi sono impegnata. Quindi il voto che sarà, non è un problema. Bene, questa è una bella risposta. Grazie allora Giorgia e McConnell per questa testimonianza. Cambio della guardia, Lucia e Giacomo, benvenuti anche a voi. Grazie mille. Grazie. Lucia frequenta la quinta B, indirizzo linguistico, Giacomo invece è lo sportivo come McConnell. Ripartiamo, non ho già sentito qualche domanda, ma insomma ripartiamo dall'inizio, sì, anche con loro. Ecco, anche voi siete privilegiati perché avete sentito, quindi vabbè. Domanda. Bilancio di 5 anni, la vostra scelta che avete fatto in terza media la considerate una buona scelta o che cosa? Beh, certamente è stata una scelta pensata, per cui arrivati a questo punto, per quanto mi riguarda, insomma, sono sicuro che è stata la scelta migliore. Più che altro c'è anche una prospettiva di continuare gli studi, e quindi lo scientifico è una scuola che ti permette appunto di proseguire. Io sinceramente in terza media ero piuttosto indecisa tra il sociale e il linguistico. Poi nel corso degli anni ero sempre più convinta comunque della mia scelta, e adesso in quinta ormai sono proprio soddisfatta di quello che ho scelto. Che lingua hai fatto? Ho fatto inglese, francese e tedesco. Bene, insomma, ha moltissime porte aperte davanti, sì, no? Sì, sì, sì, direi che le lingue ormai sono un bel... Passepartout. Certo. Ricordo bello, esperienza bella, esperienza brutta di questi 5 anni, Giacomo? Beh, diciamo che di esperienze così belle e brutte ce ne sono state, si sono alternate in tutto questo tempo, insomma, il rapporto con i propri compagni di classe, insomma, con gente che vedi tutti i giorni, è senz'altro una cosa che ti porti dentro, come qualche disavventura, magari qualche... brutto rapporto con dei professori o insomma voti negativi, eccetera. Insomma, queste sono le cose che capitano a scuola. Vita normale di scuola. Esatto. Lucia? Anch'io come Giacomo sono d'accordo. In questi 5 anni ci sono stati ovviamente momenti positivi e negativi. Ho passato tanti bei momenti comunque con i miei compagni. Ogni tanto ovviamente c'è stato qualche litigio, ma credo faccia comunque parte anche di questa fase della nostra vita e ci aiuti comunque a crescere e a maturare anche la nostra personalità comunque. Bene, allora vi ringraziamo per queste risposte, facciamo un'ultima pausa e poi completiamo anche con Lucia e Giacomo questa piccola verifica. Benissimo. Dal mondo della scuola. Middle of the night. Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola, stiamo parlando di orientamento alla fine di un percorso quinquennale. Abbiamo avuto prima Giorgia McConen, ora Lucia Giacomo, tutti studenti di classe quinta dell'Istituto Madonna del Grappa, le canossiane di Treviso. Completiamo la verifica insieme anche a Giampaolo Alimede, verifica insomma non è quella scolastica, è così una conversazione fra di noi evidentemente. Torniamo, Lucia Giacomo, a quello che succederà tra poche settimane, insomma, dopo l'esame, dopo le fatiche, l'impegno dell'esame, si chiude un periodo della vita, insomma, 5 anni con tante persone, insegnanti, studenti. Avete già pensato a questo momento, ai sentimenti che provate nel chiudere questo periodo, questo capitolo della vita? Certamente l'evento che chiude questo, appunto, 5 anni di studio, che sono stati molto impegnativi, diciamo. E quindi niente, ci si pensa costantemente, perché insomma si punta ovviamente a fare buona figura, a uscire è una cosa personale, per cui diciamo è una cosa che ti resterà dentro sempre, per cui insomma ci sta segnando molto in questo periodo. Già nostalgia? No. Ogni tanto io ci penso a, non so, il prossimo settembre, ottobre, cosa starò facendo. Non sarò ovviamente con le stesse persone, con gli stessi insegnanti, cambierò praticamente vita. Però penso faccia parte anche questo del nostro momento, della nostra vita, comunque questi 20 anni e come vogliamo goderceli, insomma. Beh, allora, come volete godervoli? Ecco, sicuramente farete un po' di vacanze. Beh, intanto sarà una bella estate una dopo. Vacanza. Ecco, e dopo dove andate a finire? Ma, diciamo, io le idee chiare ce l'ho già abbastanza, ho già provato... ho fatto il test d'ammissione a economia a Venezia, è andato bene e quindi la prospettiva è quella, insomma, è iniziare l'economia aziendale a Venezia e si vedrà come procede. Perché economia aziendale? Beh, sicuramente ho seguito i miei interessi, quello che mi piace, insomma, economia la sto già facendo a scuola e mi sembra una materia che mi si addice molto. E niente, poi c'è anche una prospettiva di lavoro futura che insomma fa sempre la sua parte, per cui insomma... Per questo. Due criteri interessanti, gli interessi e la prospettiva futura. Molto bene, vedi, se gli ascoltatori prendono nota, alla fine della trasmissione hanno tutti i criteri di scelta. Lucia? Io invece sono indecisa. Allora, avendo comunque portato avanti un cammino di studi di 5 anni in un liceo linguistico, ovviamente ho la passione e l'interesse per le lingue, quindi sarei molto interessata comunque a iniziare la scuola per interpreti e traduttori a Trento. Oppure mi interessa anche l'ambito della biologia e della scienza e quindi vorrei provare a fare il test di ammissione alla facoltà di biologia a Padova. Però in tutto questo vorrei anche cercare di andare in Germania per un periodo e provare a vivere lì, insomma, perché la Germania mi è sempre piaciuta. Sti ragazzi, hai visto? Complimenti. Allora, la Lucia ha detto non solo la facoltà che intende frequentare, ma anche la città dove frequenterà, che è Trento. Perché Trento e non Trieste, per esempio? Beh, innanzitutto perché Trieste so che comunque c'è il test d'accesso, del test d'ammissione. Poi sono andata a vedere anche l'ambiente, sono andata a vedere l'università e mi è piaciuto molto anche come ambiente proprio e abbiamo parlato anche con la direttrice, è stata veramente molto accogliente e mi ha dato una buona impressione, quindi se dovessi scegliere quella facoltà sceglierei Trento. Ma Trento cosa offre in più di Trieste? Io te lo chiedo perché lo so, ma vorrei che me lo dicessi tu. A me piace di più anche proprio la città, sinceramente. E, ovviamente mi piacerebbe anche andare a vivere in un'altra città e forse Trieste tornerei anche a casa, sinceramente, quindi cambierebbe un po' la prospettiva. E quindi io sarei indirizzata in caso verso Trento. Insomma, ci sono anche motivazioni personali. Sì. Ti vedo faccio il cattivo, faccio il cattivo. Ma la laurea che ottieni a Trento ha lo stesso valore di quella di Trieste? Beh, penso proprio di sì, comunque, anche perché mi sono interessata anche per le opportunità di lavoro verso il mondo esterno, verso un dopo, insomma. E come prospettiva mi piacciono molto. E tra le due, quindi sono sempre portata verso Trento. Sono contento perché sono trentino. Hai visto, per quello hai sponsorizzato. Ecco. Allora, mi viene in mente un'altra domanda. Voi state appunto facendo, magari con qualche dubbio in più, Lucia, con qualche dubbio in meno, Giacomo, la scelta per il prossimo periodo, per i prossimi anni a livello formativo. Mettetevi adesso nei panni, siete già dei più grandi nei confronti di chi è in seconda media, perché chi è in terza media già ha fatto una scelta, ma se doveste dare qualche consiglio a chi adesso appunto deve pensare alle scuole superiori, che consiglio vi sentireste di dare su come scegliere, non tanto su cosa, perché ognuno poi ha le sue caratteristiche, ma rispetto anche alla vostra esperienza di 5 anni fa? Da quanto ho capito io in questi anni, nell'età che si ha nel passaggio dalle medie alle superiori, comunque non si riesce ancora a sapere cosa si vuole della propria vita, per cui è una scelta un po' sia difficile, ma che comunque secondo me si può cambiare negli anni successivi, perché alla fine un passaggio da un istituto superiore a un altro è comunque una cosa fattibile, per quanto questi siano comunque di diversi ambiti, diciamo, per cui è una scelta importante che però non ti segna realmente, insomma, per cui non c'è da preoccuparsi, anche se nei primi anni non ci si trova proprio bene. Secondo me questo è importante da tener conto. Io credo che comunque sia una scelta parecchio importante, però appunto, come ha detto Giacomo, abbiamo la possibilità di cambiarla. Consiglio più che altro a quelli che devono scegliere prossimamente che scuola superiore fare, di cercare di individuare veramente quali sono le loro passioni e i loro interessi, e magari di non farsi troppo influenzare dai genitori, da amici che magari frequentano quelle scuole, perché comunque dobbiamo capire qual è la scuola adatta a noi e non adatta ai nostri genitori o ai nostri parenti vari, insomma. Questa la teniamo come slogan. Non solo, ma purtroppo anche stamattina mi è capitata una mamma che ha un figlio che ripete per la seconda volta una scuola, una classe di una scuola che non ha scelto lui, l'ha scelta i genitori, anche se non lo dicono chiaramente, e questo sarebbe importante che chi ascolta riuscisse a trasmettere questi consigli che ha dato la Lucia, ma anche tutti quanti i ragazzi, perché sono molto molto importanti. Noi chiudiamo con quelli di Quinta le trasmissioni del ciclo dedicato alla scuola, proprio perché è importante sentire la voce di chi l'esperienza l'ha vissuta in questi tempi recenti, perché non è l'esperienza dei genitori, la scuola è talmente cambiata che i testimoni più attendibili siete voi. Bene, allora, se andate nella sezione podcast del sito bluradioveneto.it potete sentire anche le puntate precedenti, quelle di terza media e quelle di metà anno. Grazie allora a Giampaolo Alimede, ci diamo già appuntamento per ottobre, novembre, più o meno. Addio piacendo. Certo, grazie allora anche a Lucia, Giacomo, Meccone e Giorgia, in bocca al lupo per l'esame e per tutto il resto. Grazie mille. Grazie a Didaici Regia, voi per l'ascolto. Da Mirko Cavallini, appuntamento fra 7 giorni. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.